gatti freddi, sì, prima poi l'ho mandato, prima pischiato. Got in studio, Mr. Simone Vailati. Yes. Do you know Simone Vailati? Yes. I'm the pleasure. Nanna. Hello. Ma basta, nonna, perché dici no? Perché mi ricorda mia nonna che la staccava le dita dal telefono. Va bene, va bene. Sbano, volevi fare tu una domanda alla, alla regina, così la lasciamo andare. I'm really proud to meet you, even if telephone. So, please, Miss Queen, just a little question, just a little one. Sì, vabbè, vai. Ma non cazzo mai, vecchia da merda! No, no, no, no, arrivederci, signora regina. Arrivederci, nonna. No, a posto. Arrivederci, buonanotte. Goodbye, goodbye. Good night, my, my queen. So just one thing, when you ask su Tinder, io dico io non uso Tinder. No. Vabbè, ciao, ciao regina. Io ho fatto imbalsamare. Save the queen. Ah, no, no, non lo, fatto imbalsamare. No, non lo vogliamo sentire questo. No, no, non lo, come si no, chiama? Non lo vogliamo sentire. Arrivederci, arrivederci, arrivederci. Grazie, grazie regina, grazie di tutto. Però mi sembrava una domanda legittima. No, no, non era una domanda, cioè stava facendo arbitrariamente. No, no, la mia che mi osservazione. Avete... No, vabbè. È una domanda legittima. Devi sempre considerare sempre l'istituzione, insomma, che bisogna sempre rispettare, no? Cioè, alla fine, comunque. Anche le nonne vogliono rispetto. Insomma, tutto sommato, poi con questo, con questo telefono aveva delle difficoltà. Fantastica, insomma. Veramente. Cioè, ma chi ce l'ha avuta? È vero, è vero, è vero. Va bene, allora ci ascoltiamo il secondo brano delle Stupide Creature. Yes. Così intanto raccogliete informazioni su quello che sta succedendo in campo. Niente, un cazzo di niente. Psicofarmaci, psicofarmaci, inalati, iniettati, ingeriti. Psicofarmaci, psicofarmaci, anelati da pazienti ormai guariti. Psicofarmaci, allegra la follia, se ogni stato dell'umore è una patologia. Psicofarmaci, se sei alla frutta, psicofarmaci, se sei malato, psicofarmaci, ma se sei sano, psicofarmaci. Senti meglio se sei un po' depresso, sei depresso quando stai un pochino meglio, ti senti calmo quando sei fervente, se la fronte fa fronte alla mente che mente. Psicofarmaci, maledetti amati psicofarmaci, conseguenze delle nostre dipendenze. Psicofarmaci, li bevi con l'acqua, ma se la vita ti fa schifo, bevi il whisky e poi il gin e poi il psicofarmaco per farti anche. Visto che non riesco neanche a pronunciare.

aspetta, io ancora non ce l'ho il gol. Potrebbe non eccolo, Messi Milan, grande mischione in campo del gol. La partita inizia adesso, inglesi di merda. Buono, okay, gol. Abbiamo l'unanimità, quindi è gol. È gol, quindi tu, se qui non fosse stato gol, tutti i computer dicono che adesso è gol, quindi è gol. Chi ha segnato? Goal! Scusi, chi ha fatto, Paolo? Chi ha segnato? Ha segnato bocio di culo. Assolutamente bocio di culo, esatto. Bucio di culo. E sentiamo la famosa, il famoso inno di Bucio de culo a questo punto. Bonucci de culo. Bonucio de culo. Mamma mia, che immagini brutte. Bucio de culo. Tutto me potevano dire, ma no, che Bonucci ci svoltava la finale. Bellissimi tifosi a dorso nudo col petto villoso e la piscina in pancia. Saranno tassati di più, rigorosamente. Che cazzo. Allora voi dovete, Michela, ma tu ti senti pronta agli eventi? I rigori? Prima di tutto i supplementari. Allora, ragazzi, vabbè, poi c'è l'aria condizionata accesa stavolta. Ragazzi, sappiate che io siamo positivi. Mattarella! Ragazzi, per una frazione di secondo, si è scomposto anche Mattarella. Alzate le mani e detto porco e poi sei ricondotto. Secondo me voleva fare come Pertini, ma ricordate 82, allora, Pertini Bonucci faceva. Ha fatto gol al 67esimo. Sì. Tanto il cane salutiamo Andrew, che praticamente ci ha scoperto solo adesso e si è pentito, e quindi ci puoi risentire nei podcast. Vabbè, Michele, lascia la panna. Il cane canta e suona. Il cane festeggia la vittoria. Festeggia anche lui, è contento. Gli do la tromba. Sì, con le trombette è andato, ha suonato, ha cantato. E a lui gli piace la caciara. A lei gli piace la caciara. Non a caso si chiama Scozia. Scozia, esatto, nell'animo. Esatto. E fantastico. Sono pronta ai rigori, a prendere il motorino e andare alla. Ma quale motorino? Quale rubi? Non so, prendo il mio motorino di quando avevo 14 anni. Certo. Non credo che parta neanche. Però c'è. Ma ce l'hai ancora? Sì, che motorino è? È uno Scarabeo. Grande, Pariolina. È uno scarabocchio. Però alla nostra età il motorino doveva essere più che altro l'SH. No, io so degli anni 80 e. Bene. Francesco, allora com'è il clima lì dalle tue parti? Pici! Ci stanno le cicale, quindi fa caldo. No, nel senso la gente urla. Sì, hanno urlato, trombette, tutto. C'è gente a casa. Vabbè, questo disgusto le trombette. Beffa per gli inglesi, quindi è ancora più bello. Esatto. Chissà come. Perché poi sì, io non ho potuto vedere la partita, ve lo devo dire, perché gestivo un po' tutto, tra l'altro anche male. Bello Bonucci che inquadrato dice fotografe me. Proprio col gesto. Esatto. E insomma, alla fine, da quello che ho capito, questi hanno segnato molto presto e poi si sono arroccati. Tu considera che a un certo punto la statistica diceva che gli inglesi avevano fatto un tiro in porta ed era quello del gol. Adesso siamo a 2 tiri in porta degli inglesi contro 7 degli italiani. Il possesso di palla è 71 per l'Italia, 29 per gli inglesi. E vabbè, ragazzi, se vince anche così, speriamo che qualcuno vinca nei 90 minuti. Esatto. Qual è la previsione del tardigrado? Quindi quella 3-0. Quindi verrà per l'Inghilterra, tra l'altro, quindi. No, è che purtroppo no, cioè, no, per l'Italia, allora, anzi, secondo... Non è che il tardigrado sta vedendo tipo la partita del 2126. Io l'ho capito qual è la cosa. Il tardigrado ci prende per il culo perché sa che noi non lo possiamo uccidere, capito? Quindi esatto. Cioè lui ride, vero che rideva prima. Ma risentiamolo. Francesco che diceva qualcosa. In realtà, se lo infiliamo in forno a 200 gradi per una decina di minuti, è cotto e magnato, stronzo. E ora ce lo dici? Ce lo vuoi dire di prima? Lo scoperto. Michele, accendi il forno per piacere. Ok. Comunque, se avete prestato attenzione alla canzone delle stupide creature, scusate, prima dicevamo che l'Inghilterra avrebbe avuto sul finale dei problemi proprio per il fatto dell'igiene intima. Infatti possiamo temere degradando solamente il cambio. Il cambio entra fresco. Sicuro, è vero. E manca poco tempo, non fa in tempo a irritarsi la zona intima. Nel mio intimo c'è Chili. Io immagino sempre questa scena, che nel loro intimo c'è il Chili. Mamma mia, sai che roba? Brucia, attenzione, perché. Poi ognuno si diverte come vuole. Assolutamente, non discuto. Insomma, andiamo oltre le emorroidi qua, però. bello questa trascesa. Prego, pianoforte. Intanto siamo al 71esimo da noi, quindi almeno 72 nella realtà. Ve voglio di. Accogliamo questo ospite con un grosso applauso, signore e signori, emorroide.